Ascoltiamo l'intervento di un militante della comunità curda Ticino sulla situazione del popolo curdo in Turchia e in Iraq, a pochi giorni dall'annuncio della ripresa della lotta armata. La presentazione si è tenuta sabato 29 aprile 2006 nella fiaschetteria del centro sociale autogestito Il Molino di Lugano. Registrazione a cura di Progetto Radio Scatola Nera. Ma io comunque vi ringrazio tanto, vostra sensibilità, ringrazio tanto per aver organizzato questa giornata che è dedicata sulla questione curda. Comunque, se anche ci siamo pochi, era sempre importante. Cioè, io, nel senso che mi presento un po' chi sono prima di cominciare. Allora, io sono arrivato qua nell'88 in Ticino, quando sono arrivato in Svizzera, che è arrivato dalla Turchia, e comunque come rifugiato politico ho fatto domanda asilo politico in Svizzera. È stato accolto da parte Berna, dall'88 che mi sono domiciliato in Ticino. Nel periodo di nell'anno, inizio negli anni 90 ero responsabile della comunità curda in Ticino, che fino al 94. 94, non so se qualcuno magari ricorda, c'è stato un processo contro curdi qui a Lugano. Comunque io sono come responsabile della comunità curda in Ticino. Ho fatto circa un anno, mi hanno fatto dormire un anno la stampa qua, no? Nel periodo 93, credo, inizio di 94 fino all'inizio di 95. Abbiamo fatto 6 giorni di processo, che idea questo, c'è stato ovviamente un complotto contro noi. Come nel 93 la Germania che ha messo fuori l'ECE PKK, allora la Svizzera non ha fatto lo stesso processo, però la Svizzera ha cominciato anche, ha tentato di mettere fuori l'ECE PKK in Svizzera. Per quel motivo hanno organizzato diverse cantone, una specie di complotto. Io sono fortunato, quindi ho già fatto circa 7 anni in prigione prima di venire in Svizzera, ho dovuto fare ancora un anno qua. E dopo, cioè, mia vita, comunque, quando ho fatto prigione in Turchia, avevo 16 anni, ero bambino ancora, ho fatto 7 anni, sempre sulla questione curda, nel senso che lotta contro lo Stato turco. Allora dopo io sono stato rappresentante del Fronte di Liberazione Nazionale del Kurdistan, adesso ho cambiato nome, in Italia. Ho fatto circa 6 anni, fino al 2001 ero a Roma come rappresentante del Fronte di Liberazione Nazionale del Kurdistan. Ovviamente, come sapete, arrivo di Ocalan in Italia, tutto è stato mio progetto, nel senso che far venire in Italia Ocalan. Ho fatto anche portavoce durante la sua permanenza in Italia, ero portavoce di lui, circa 2 mesi, 65 giorni. Adesso, dopo 2001, sono tornato in Svizzera e faccio parte della Federazione Curda in Svizzera. C'è una federazione che si scopre tutta la sede curda a livello svizzera, che è comunque una federazione proprio che da anni che esiste in Svizzera. C'è un'organizzazione legale e è stato fondato secondo le norme svizzere. Ecco, come sapete che il popolo curdo, partire dal 70, negli anni 70, della nascita del PKK, Partito dei Lavoratori del Kurdistan, ha cominciato a risvegliarsi. C'è un popolo negato, un popolo della tutta la sua storia è stato da parte degli stati, qua, che è stato diviso, come sapete, tra Siria, Turchia, Iran, Iraq. Qua, nel senso che è un territorio molto importante strategicamente, anche ricchezza del Medio Oriente, proprio abitano il cuore del Medio Oriente curdi. Quindi un territorio molto importante, che quei territori, chi la controlla, possiamo dire che possono comandare tutto il mondo. Cioè oggi vedete America, processo del Medio Oriente, gli americani, perché America a tutto costo vuole controllare Medio Oriente, e tra qua anche Iraq, nel senso che dove che siedano curdi, il popolo curdo, che strategicamente è più importante per la forza imperialista capitalista mondiale. Quindi pensate un po' che dalla nascita del PKK è stato cominciato da zero costruire questa lotta liberazione contro lo Stato turco e anche contro una coalizione mondiale che oggi, che nei paesi che occupano il Kurdistan comunque hanno legami con la forza importante imperialista e capitalista nel mondo. Iran è un paese che sapete, Iraq, c'è la storia dell'Iraq, sapete che Saddam è stato cercato sempre di sterminare il popolo curdo. Iran lo stesso cosa. La Turchia, c'è stato tanti nelle storie, circa 40 rivolte curde, è stato soffocato con la sangue. E quindi che l'unica forza che è nato il PKK oggi, dopo tanti anni di lotta, che è l'unica forza che indipendente, che è una forza socialista, una forza contro l'antifascismo, contro il fascismo e contro il capitalismo e contro imperialista mondiale. Quindi per questo motivo che magari qualcuno sta cercando di paragonare la lotta liberazione nell'America Latina, la lotta liberazione dall'altra parte del mondo, ma questo lotta liberazione dei curdi, che è una cosa difficile, una cosa che praticamente si gioca di cambiamento statuto del Medio Oriente. Quindi per questo più importante, credo che oggi, che noi da anni che diciamo questo, che veramente nei confronti di altri che lotta liberazione, che abbiamo, possiamo dire che rispetto ad altre lotte di liberazione possiamo avuto molto meno di appoggio delle forze democratiche mondiali, perché anche qua c'è il Medio Oriente non è lontano nei paesi europei. Per esempio le forze democratiche europee non hanno mai appoggiato come Palestina, per esempio, anche Palestina nel Medio Oriente, però nel senso che la questione palestinese un po' somiglia alla questione curda, però tutta un'altra cosa, perché Palestina hanno trovato appoggio nei paesi arabi, che hanno avuto tanto appoggio della Unione Sovietica nel tempo quando c'era, esisteva l'Unione Sovietica, però i curdi non abbiamo nessun paese che sostiene la lotta liberazione curda, e per questo, anche per questo punto, c'è stato un durissimo lotta tanti anni. Se vedendo questo dalla nascita della lotta liberazione fino ad oggi, come sapete che è stato a partire dall'84 il PKK ha guidato una lotta armata fino alla cattura del presidente Öcalan, che nel periodo qua, anche negli anni 93, c'è stato proclamato diverse volte cessato il fuoco, breve tempo, però una guerra che dall'84 fino al 99 c'è stato il risultato della guerra, sia parte Turchia che ha condotto una guerra sporca contro curdi, contro civili, non ha mai separato i militanti o gente comune. Basta che per loro è un curdo che sostiene sua lotta alla liberazione, è stato massacrato, hanno commesso tante zone curde, un genocidio enorme. Che qui se ne parla di tra questo tempo 40.000 di morti, cioè tra qua non è che tutti sono curdi, però c'è stato anche che morti circa più di 10.000 soldati e poliziotti, servizi segreti che operano nella zona curda contro PKK. Il PKK non è che ha preso lotta armata indeterminato. Come sapete, la guerra non durerà mai lungo tempo, nel senso che tra questo momento si cerca dialogo, si cerca di risolvere la questione per finire la guerra. Guerra sempre, per lotta armata c'è stato un periodo, ha dovuto il PKK combattere, cioè perché che non c'era l'altra soluzione. Come sapete, partire dall'80, 81, colpo di Stato in Turchia, qui c'è stato messo in prigione migliaia e migliaia di militanti curdi, migliaia di gente comune anche, che è quelli che i familiari del militanti, che è un periodo che comunque non hanno mai lasciato una possibilità di fare politica, difendere il popolo curdo via normale. Per quello il PKK ha cominciato lotta armata, perché non c'era un'altra soluzione. E ovviamente partire della cattura di Öcalan, il nostro presidente, leader nazionale curda, perché PKK oggi, sin dal suo inizio, non ha mai sempre messo solo parte curda in Turchia, è stato sempre a livello nazionale, nel senso che anche internazionale possiamo dire, perché il Kurdistan diviso, quindi ha sempre cominciato un obiettivo delle unità di curdi, del popolo curdo. Per quello non ha mai separato i curdi in Turchia, i curdi in Iraq, i curdi in Iran, i curdi in Siria. E quindi sempre ha cercato di unire il popolo curdo tutto nel mondo, anche in Europa, in Russia, dove vivono i curdi. Però comunque c'è stato un'avanguardia molto importante, nonostante di tanti ostacoli, di tanti anni di guerra, ha riuscito a diventare legittimo rappresentante del popolo curdo, con la maggioranza dei curdi, che è dove vivono i curdi oggi nel mondo. E quindi oggi possiamo dire che il PKK è il popolo curdo e il popolo curdo è il PKK. Questo, diciamo, siamo arrivati a questo livello, che anche che vedendo che tutte le sue iniziative, non solo ha fatto combattere lotta armata, ovviamente è stato primo piano lotta armata, però anche abbiamo fatto cambiamento della società curda, che è un rinnovamento del popolo curdo. Abbiamo fatto tante strade per questo. Oggi veramente, che pensando che fino a 30 anni fa che nessuno poteva dire essere curdo, ma oggi che la questione curda è arrivato ordine del giorno nel mondo, grazie alla lotta del PKK, che questo è arrivato a questo livello, la lotta del popolo curdo. Oggi che è difficile capire il PKK, perché tanto non riusciamo a capire, perché se chiedendo E l'America era un'organizzazione terroristica pericolosa nella lista americana era primo piano, nel senso che il secondo o terzo. Se chiedendo lo Stato turco, il PKK, un partito comunista, un partito terrorista, se chiedendo, non so, di tante organizzazioni anche che sinistra turca, che hanno veramente, per capire PKK, tanti anni hanno condannato PKK perché sta guidando una lotta nazionale, perché loro che dicono che siamo socialisti, il PKK è un'organizzazione nazionalista. E quindi veramente che difficile fare spiegare PKK cos'è, cioè far capire PKK cos'è. No, oggi veramente ha fatto cambiare tante forze democratiche, tante forze sinistra nel mondo. I primi anni vedevano una cosa diversa, oggi vedono un'altra cosa, perché il PKK è nato come un partito socialista, cioè ha scelto sin dal suo inizio, sua fondazione, ha scelto costruire socialismo con il popolo curdo, con la sua realtà, non guardando e prendendo esempio dalla Russia, del non so, dall'America Latina, no, realtà del popolo curdo, dove vivono curdo, dove loro, cioè, secondo loro cultura, loro origine, cioè rispettando tutto cultura curda, cioè un modello nuovo, però che è una cosa fondamentale, che il PKK è un'organizzazione socialista, che per quello abbiamo tanti nemici, che oggi perché l'America, vedete, fa coalizione con l'organizzazione curda nel nord Iraq, cioè Kurdistan iracheno, Taliban e Barzani, che sono anche loro hanno combattuto, hanno guidato una lotta armata contro Saddam. Però sono cose diverse. Che uno, America sempre ha appoggiato l'esercito turco durante le guerre, negli anni di guerra, fino ad oggi continua ancora fortemente a appoggiare la Turchia contro PKK, contro il popolo curdo. Dall'altra parte che fa coalizione con Taliban e Barzani, che invita Casa Bianca in America, che accolgono con la cerimonia. Però dall'altra parte America ha catturato il nostro presidente e ha consegnato alla Turchia, che è il nostro leader, da 7 anni che isolamento, sotto un isolamento, vive in un carcere in Turchia da solo, che non c'è nessun contatto. Cioè, vedete questo doppio standard. Quindi, che vi capite sicuramente cos'è PKK a questo punto. È grande differenza questo. Oggi, che noi... tanti pensano che i curdi appoggiano alleato con l'America. Non è vero questo. Oggi l'America, con la Turchia, che sta esercitando una collaborazione contro il popolo curdo e contro che nostro forze militare, cioè i nostri guerriglieri partigiani, che dove vivono nel nord Iraq, nelle montagne nel nord Iraq, che stanno passando tutta l'informazione intelligence, che tanti americani hanno possibilità di questa tecnologia, passano informazione alla Turchia, che fisicamente, anche economicamente, militarmente, che hanno sempre appoggiato la Turchia, continuano a appoggiare. Non solo America, anche europei, nei paesi europei hanno appoggiato sempre la Turchia contro i curdi, cioè contro il PKK. Oggi la Germania combatte più di in Turchia e contro i curdi. Nel 93 che ha messo fuori legge PKK, oggi nei carceri in Germania ci sono tantissimi nostri compagni che ancora stanno in prigione in Germania. E quindi è questa la realtà del PKK è oggi la realtà della lotta e liberazione del popolo curdo. Che possiamo dire che noi partire dalla cattura di Öcalan era il loro obiettivo. Comunque c'è stata una cattura di coalizione mondiale, qui all'America guidato tutta l'operazione nella cattura del nostro leader in Kenya, e qua hanno obiettivo, come non sono riuscito militarmente a eliminare la lotta liberazione, quindi hanno detto sull'unica soluzione è catturare il leader, il loro leader, che poi dividere l'organizzazione, che piano piano finire la lotta liberazione e finire il PKK, cioè che finire il PKK vuol dire determinare la lotta liberazione del popolo curdo. E questo obiettivo, avevano questo obiettivo nella cattura del nostro leader. Cioè, pensate un po' che il nostro leader arriva fino in Italia, in Europa, chiede asilo politico, che nessun paese europeo che sono stato favorevole che sua accoglienza, che comunque hanno rimasto, hanno cercato di cacciare dall'Europa. E questo è differenza, la lotta del PKK è differenza di altre lotte a liberazione. E ovviamente tante lotte a liberazione c'è stato durissimo, però c'è una grande differenza, nel senso che grande difficoltà, una lotta difficilissima che oggi, ancora oggi, partire dalla cattura di... Comunque il popolo curdo, dopo la cattura del loro leader, reagito fortemente. Che anche abbiamo messo... abbiamo ritirato lotta armata fuori della zona curda in Turchia, che ci siamo ritirati nel Kurdistan iracheno, tutto nostro compagni della montagna. Abbiamo dato una possibilità di democratizzazione in Turchia, perché la Turchia ha sempre reclamato, quando venivano in Europa, che noi che vogliamo cominciare il processo di democratizzazione dello Stato turco, però c'è il PKK. Per questo motivo gli europei che sono stato sempre hanno cercato di appoggiare la Turchia. Alla fine, che quando ho cominciato a discutere l'ingresso della Turchia all'Unione Europea, allora che abbiamo detto che grazie al nostro leader, che nel suo progetto questo, che abbiamo detto che lui ha fatto un nuovo progetto di una repubblica democratica turca qua, che sul riconoscimento del popolo curdo vivere insieme, che cambiare la costituzione turca, che partecipando, che riconoscendo nella Costituzione esistenza del popolo curdo e cultura curda, che è una democratizzazione come un modello in Svizzera, per esempio, no? Che più o meno possiamo dire che è come una confederazione che convive con gli altri, con le altre minoranze che vivono, perché in Turchia non solo i curdi, che ci sono anche altre identità, altre minoranze, che comunque noi, il PKK ha dato possibilità dei paesi europei sulla parola della democratizzazione ingresso dell'Unione Europea. Anche noi, il PKK ha dato un appoggio all'ingresso la Turchia all'Unione Europea. Però 6 anni abbiamo dato questa possibilità. Come e 6 anni di senza lotta armata che abbiamo fatto, che la lotta armata dal partire dal 99 nel 2000 fino al 2006, ancora oggi, fino ad oggi abbiamo dato che abbiamo messo secondo piano la lotta armata. Non è che abbiamo annullato nel nostro esercito curdo, ma che abbiamo dato fermato, però abbiamo aspettato questo processo di democratizzazione in Turchia. Cosa ha fatto la Turchia finora? Non ha fatto niente. Cioè, hanno cambiato tante leggi, hanno fatto tante nuove leggi, che l'hanno riconosciuto, firmato ufficialmente criteri del Copenaghen, ma qua hanno dichiarato che riconoscimento del popolo curdo, però sulla parola, che hanno dato possibilità di aprire scuole curde, un TV curda, hanno lasciato via libera trasmissione televisive della radio curda, però che l'hanno messo subito un limite al giorno 45 minuti della trasmissione nel loro canale, lingua curda, però traducendo, mettendo titolo, sottotitolo, traducendo lingua turca. Però non è in diretta, trasmissione in diretta, non devono essere in diretta, non devono superare 45 minuti al giorno. Le scuole, chi le apre scuole? Se non appoggia, non esiste un progetto statale, non esiste finanziamento, chi le apre scuola curda? Il popolo curdo, già che sono già molto poveri, che rispetto a tanti anni di guerra, qua sì, se ne parla di centinaia e migliaia di curdi che sono stati all'esodo verso nelle metropoli turche, che oggi che c'è stato durante negli anni di guerra è stato bruciato migliaia di villaggi, migliaia di case sono stati evacuati o distrutti o bruciati. E quindi con questa condizione che all'anno vivono nella grande città curda, nella grande città turca i curdi, come fanno a organizzare le scuole? E quindi tutto una cosa falsa, un processo di democratizzazione che è solo sulla parola, solo sulle carte, che oggi che l'hanno cominciato di fare una nuova legge antiterrorista in Turchia, che comunque è una dichiarazione di guerra totale contro le forze democratiche turche e contro i curdi. Che come sapete, partire dal Newroz quest'anno, c'è stata una celebrazione enorme in tutte le città curde, tutte le città turche in Europa, che ha partecipato milioni di curdi a festeggiare Newroz. Però dopo Newroz cosa è successo? Hanno cominciato subito offensiva militare nelle montagne curde, che grazie all'informazione degli americani, che l'hanno usato armi chimiche sui nostri compagni nella montagna, che si sono uccisi circa 20 nostri combattenti, compagni, con le armi chimiche. Con le armi chimiche. Dopo il loro funerale, c'è stata una reazione forte dal popolo curdo nella città di Diyarbakir, in altre città curde, dove hanno fatto funerale di nostri compagni, 20 compagni. C'è stato partecipato di giorni e di giorni di manifestazioni tutta la città curda. Il poliziotto, esercito, ha sparato sui popoli, sui manifestanti. Sono uccisi 30 curdi ultimi 2 settimane fa, 3 settimane fa, che tra loro tre bambini, che da partire da 8 anni fino a 12, 16 anni. C'è stato 30 morti di gente comune, gente civile, quelle che manifestano, quelle che hanno partecipato al funerale del nostro compagno, che oggi, che una settimana da 10 giorni, hanno concentrato circa 500.000 soldati in Kurdistan turco, cioè tutto il confine con Iraq, con Iraq e con Iran, era 500.000 di soldati, una truppa grande. Cioè questo, l'America l'ha occupato Iraq con 200.000 soldati. Che pensate un po', oggi da 10 giorni che si muovono, fanno operazione nella montagna curda, 500.000 soldati. Quindi tutto questo, con la coalizione, di nuovo coalizione mondiale, hanno deciso di dichiarare guerra totale contro il popolo curdo, contro il PKK, che oggi siamo veramente in una situazione difficile. Cioè, comunque noi, tra questo momento, secondo la nostra iniziativa popolare in Kurdistan, in Europa, che stiamo costruendo il Consiglio del Popolo Curdo, che stiamo organizzando da 2 anni, ultimi 2 anni, far partecipare il popolo curdo in ogni decisione della nostra organizzazione. Cioè, che stiamo veramente costruendo proprio un Stato, stiamo organizzando proprio, facendo partecipare il popolo curdo, anche gente comune, semplice, che possono candidarsi a questo consiglio, proprio il PKK diventando piccolo adesso. Cioè, che il PKK già ha fatto il suo ruolo, che è diventato un'organizzazione molto grande, adesso piano piano che sta andando verso, entrando proprio nell'interno del popolo. Cioè, questo processo veramente prevede nel futuro una confederazione democratica nel Medio Oriente, che è il nostro obiettivo, perché, che pensando oggi, l'unica forza indipendente, l'unica forza che combatte contro l'imperialismo nel Medio Oriente, contro oggi, che vuol dire combattere contro lo Stato turco, vuol dire combattere contro l'America, contro nei paesi europei, cioè lo Stato europeo, che perché appoggiano nell'interno del NATO, appoggiano militarmente e economicamente alla Turchia. E questo è una cosa veramente grande, una cosa che possiamo dire anche che ultimamente coinvolto direttamente l'America, europei, hanno messo d'accordo una guerra totale contro il PKK, contro il popolo curdo. A questo punto cosa facciamo noi? Cioè, contro questa coalizione mondiale, cosa possiamo fare? Ma noi ancora manteniamo il nostro esercito liberazione, ancora manteniamo tantissime organizzazioni legali in Turchia come partito Società Democratica, un partito puro curdo legale, che è qui, è vinto l'elezione nella zona curda, 70% di voti curdi hanno avuto loro l'ultima elezione, che oggi se ne parla di 60-70 sindaci, che oggi nella città curda, nel piccolo paese, che ci abbiamo vinto l'elezione comunale, che quindi anche a parte in Turchia e tantissimi rapporti con le altre organizzazioni sinistra turca, organizzazioni democratiche, organizzazioni non governativi, che veramente oggi ultima manifestazione, reazione del popolo curdo dopo Newroz, milioni di partecipazione dopo Newroz, 1 settimana e 10 giorni sotto la poliziotti, sotto militari turchi, che sparando anche sui manifestanti, il nostro popolo 1 settimana organizzato grande reazione. Quindi questo era il nostro futuro e questo era il futuro della nostra lotta. E il PKK oggi è diventato maggioranza all'interno del, si è organizzato, ben organizzato, maggioranza del popolo curdo qua, che io parlo del popolo curdo, però magari qualcuno non sa quanti sono curdi. Cioè, nel Medio Oriente oggi si conta 40 milioni di curdi, che è qua minimo 20-25 milioni che vivono Kurdistan turco. Cioè, quindi abbiamo grande sostegno del nostro popolo, che il popolo curdo ha contribuito, ha sacrificato migliaia di suoi figli, hanno sempre appoggiato economicamente la nostra economia e il popolo curdo. Cioè, oggi anche in Europa, tutto nel mondo, in Kurdistan, che il nostro lotto economicamente è stato finanziato sempre dal nostro popolo. Quindi questo è una cosa futuro. Noi, cioè, comunque nel nord Iraq, quelli che alleato con l'America, Barzani, Talebani, che sono organizzazioni di clan, non sono organizzazioni moderne, non sono che una forza democratica. Che loro oggi fanno luna di miele, che sono contenti. Uno è diventato presidente irachino e un altro è diventato presidente del Parlamento curdo nel nord Iraq. Però questo è luna di miele, questo finisce. E quando finisce luna di miele, ovviamente tanti cominciano i problemi, realtà, tornano realtà. Quando tornano in realtà, cosa succederà? È questo che succederà. America non appoggia mai nessun popolo nel mondo per loro di bene, per costruire democrazia addirittura in Iraq e in altre zone. Cioè, questo è una cosa impossibile. Cioè, quindi l'unica speranza, nostra speranza, di nostro popolo, nostro leader che nonostante 7 anni di isolamento, in condizioni difficili, però che lui è ancora avanguardia del popolo curdo, ancora legittima rappresentante, legittima leader del popolo curdo. Quindi noi, anche se le condizioni difficili, continuiamo a combattere, continuiamo con... se necessità, in questi giorni che vediamo, pensiamo che necessità, sarà una guerra totale nei prossimi 6 mesi. Però posso dire che questo 6 mesi, ultima prova, cioè ultimo tentato di loro che per finire PKK. Dopo sei mesi che sarà, che possiamo vederci tutti insieme il risultato. Ovviamente tutto, ognuno di dovere di appoggiare e la lotta alla liberazione del popolo curdo, perché credo che anche questo è importante per l'Europa. Oggi, se l'America è entrato fisicamente, militarmente nel Medio Oriente, questo anche che in un giorno tornerà anche, a toccherà anche nel paese europeo, negli interessi del paese europeo, del popolo europeo. E questo anche bisogna pensare. Questo più importante oggi di necessità veramente si muoversi. Siamo pochi, fa niente. Cioè, possiamo cercare di convincere la gente che appoggiare una lotta legittima, una lotta giusta, una lotta che è l'unica esperienza dei popoli nel Medio Oriente, anche in altri popoli, che arabi, persiani, tutti i che popoli che vivono nel Medio Oriente, perché non c'è un'altra resistenza legittima, una resistenza giusta per il futuro del Medio Oriente. L'unica forza che può costruire anche una pace tra popoli nel Medio Oriente, perché come sapete, se non esisteva il PKK, forse un'organizzazione socialista, oggi sicuramente cominciava già è successo che una guerra civile tra curdi e turchi. Grazie dell'idea del PKK, che oggi che tantissimi turchi anche hanno partecipato alla lotta liberazione del popolo curdo. Posso dire che anche io sono turco, non sono curdo. Come me ci sono tanti migliaia di compagni che lavorano per curdi, fisicamente sono dentro l'alta liberazione. Anche vedete che tra popoli non c'è problema, non è mai avuto una guerra tra loro, tra turchi e curdi. Questo è grazie che il PKK è veramente un'organizzazione socialista che sua idea, con la sua idea, con la sua intelligenza, che ha evitato una guerra tra popoli, che oggi veramente, pensate un po', che l'ultima manifestazione che c'è stata nella città curda turca in Turchia, perché erano davanti i bambini, tantissimi bambini alla cortea, perché questi bambini, che quelli che c'è stato, lo Stato turco c'è stato mandato all'esodo nella città grande curda turca. Quelli che hanno vissuto e bruciato i loro villaggi, le loro case, è stato distrutto la loro casa. Ogni famiglia ha perso un figlio, ogni famiglia ha perso una figlia. Perché questi bambini erano dei bambini 12 anni fa, 13 anni fa, oggi sono giovani. Oggi sono giovani e partecipano fortemente a tutta la manifestazione in Turchia e in Kurdistan. E questo, se non c'è stato un'avanguardia come PKK, già questi bambini diventavano, non so, sparavano cioè prendevano obiettivo anche come nemici il popolo turco. E grazie che la strategia della nostra organizzazione, la nostra lotta liberazione, è che è stato questo avvicinamento tra popolo turco e popolo curdo. Che non, se non esiste ancora una guerra civile tra loro, è grazie a questo, della nostra lotta liberazione, che loro, che è sua idea. Ovviamente internazionalismo per noi primo piano, che oggi è, che è veramente che è nostra lotta una lotta internazionalista, perché che si tocca di quattro paesi, che oggi vedete le nostre iniziative nei paesi europei, che oggi possiamo dire che anche c'è stato tanta partecipazione all'esercito curdo, anche europei, che tedeschi, francesi, italiani. E questo, diciamo, prossimamente, sicuramente che oggi il nostro esercito è già pronto a combattere, che perché c'è, esiste, forzato di nuovo. Quindi questo tentativo, con l'appoggio del nostro popolo, con l'appoggio delle forze internazionali e democratiche, che riusciamo veramente a resistere, a portare avanti la lotta liberazione, che portare avanti il processo di democratizzazione nel Medio Oriente. Possiamo dire che continuiamo l'esperienza di tutto il popolo nel Medio Oriente. Ringrazio tutto, io posso dire tutto, mi fermo qua, che lascio un spazio alle domande. Ovviamente non ho parlato di tutte le cose, però sicuramente che fate le domande, poi possiamo discutere insieme. Grazie. Progetto Radio Scatola Nera, www.scatolanera.ch.